Buonasera a tutti, inizia Zardis Magnetics, programma che va in onda in diretta radiofonica ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21.30 qui dagli studi di Radio Onde Furlane, ma partiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Questo brano Retribution è la sigla di questa trasmissione, sigla iniziale, che è la trasmissione Zardis Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine e andremo avanti fino alle ore 21.30. Comunque ho parlato di sigla iniziale, ma come logica per chi ci segue, perché non esiste una sigla finale, perciò è ovvio che la sigla iniziale. E comunque andiamo avanti con questo programma e poi magari come consuetudine vi diremo i nostri contatti per scriverci o quant'altro o per seguirci in rete. E comunque andiamo con questo brano degli Affluente, band di Ascoli Piceno, band che ha esordito, insomma, che si è formata agli inizi degli anni 90, e questo 7 pollici è stato proprio uno dei una delle loro prime uscite, dato che è datata 1994 ed è appunto il 7 pollici, logica 7 pollici, logica dominante, loro sono gli Affluente. Siamo sempre all'ascolto degli Affluenti, da questo loro 7 pollici, logica dominante, 7 pollici datato 1994, band comunque gli Affluenti tuttora esistente. Del modello industriale merda. D'accordo, d'accordo, io non dico che la vita finirà o che il mondo si risolverà o che l'universo cesserà di esistere, ma l'uomo, porca puttana, cesserà di esistere! Come ai dinosauri è toccata l'estinzione, la stessa cosa capiterà a noi. Noi non siamo affatto importanti, siamo solo un'idea del cazzo! Ti sbagli, non cesserò di esistere. Io sarò qui nel futuro. Ah, cazzo, lo vedi che sei fissato con il futuro? Senti, amico mio, mi stanno venendo le palpitazioni e ho una nevralgia acuta da schiattare. Almeno in quei bagni ci posso fumare. Non si può. Ti faccio una domanda. Cosa? Hai mai avuto la sensazione di aver vissuto in un tempo diverso da questo? Cioè, come dire, in una vita precedente? Più o meno. Ma nella mia vita precedente ero morto. Ecco, vedi, io invece no. So che ero qui nel passato prima di nascere in questa vita. E quindi so che sarò qui nel futuro dopo la morte. Ah, sì? E in questa esistenza alternativa diffonderai questo stesso odore sgradevole. Non offendiamo, eh? Io a questo credo. Ti dico a che credo io. Tu non credi a niente. No, io credo, Brian. Sì, a cosa credi? Tu pensi che la Meba si sia mai sognata che si sarebbe evoluta nella rana? Ovviamente no. E quando la prima rana spuntò fuori dall'acqua e usò le sue corde vocali per attrarre una compagna o per allontanare un predatore, tu pensi che quella rana si potesse immaginare che il suo gracidio si sarebbe evoluto in tutte le lingue del mondo, in tutta la letteratura del mondo? Cazzo, è ovvio che no. Così come per quella rana non era possibile concepire, che so io, Shakespeare, noi non siamo in grado di immaginare il nostro destino. Io lo so qual è il mio destino. Sì, ma a me sembra che ciò di cui stai facendo esperienza con tutte queste manifestazioni di regressione, precognizione, trasmigrazione astrale e assortimento di cazzate varie sia solo l'equivalente di quel primo grugnito primordiale. Perché l'evoluzione non è certo conclusa, l'uomo non è la totalità, né il fine ultimo di tutto. Vedi, se per ipotesi volessimo rappresentare tutto il tempo in un anno solo, saremmo appena ai primi momenti del primo gennaio, c'è ancora tanta strada da fare. Se ora non ci spuntano nuove membra, ali, pinne o code, è perché anche l'evoluzione si evolve. E laddove tu, attraverso un processo di rievocazione extrasensoriale, potessi capire di essere stato una ragazza olandese del 600 che viveva in un mulino nella vecchia Amsterdam, un giorno ti renderesti conto che non hai avuto solo una o due passate o future esistenze. No, signore, ma che eri e sei ognuna ed ogni cosa che al mondo mai è stata e mai sarà. Aspetta un attimo. Ti sei appena contraddetto. Davvero? E come ho fatto? Di sotto stavi predicendo la fine del mondo e adesso mi parli del futuro. Come lo spieghi questo? Facile. Quando arriverà l'apocalisse stesso, non sarà che parte di un processo, di un nuovo balzo dell'evoluzione. Già. Beh, io dico che qualunque cosa accada, l'umanità non cesserà di esistere. Invece deve, perché la definizione stessa di apocalisse implica che l'umanità cessi di esistere, almeno in forma materiale. Come sarebbe in forma materiale? Che si evolverà. In che cosa? In qualcosa che trascende la materia, in una specie di puro pensiero, mi segui? Sì, come un fantasma? No, che c'entrano i fantasmi, babbeo? In qualcosa che è ben oltre la nostra comprensione, in una coscienza universale, in Dio, che è per lo stesso principio per cui il tempo che tu registri è. Tu non credi in Dio? Certo che credo in Dio. Vedi, il fatto è, Brian, che Dio è un Dio odioso. Per forza. Perché se Dio è buono, allora perché c'è il male nel mondo? Perché ci sono il dolore, l'odio, l'avidità, la guerra? Non avrebbe senso. Ma se Dio è uno schifoso bastardo, sai dirmi perché c'è il bene nel mondo? Perché ci sono l'amore, la speranza, la gioia? Guardiamo in faccia la realtà, cazzo, il bene esiste per essere fottuto dal male. È l'esistenza stessa del bene che permette al male di prosperare. E dunque... Dio è cattivo. E non importa quante esistenze passate o future hai a disposizione, perché tutte saranno condite di dolore, di angoscia, di malattia e di morte. Vedi, Brian, Dio non ti ama. Dio ti disprezza. Così non c'è speranza. E l'umanità è solo una componente del meccanismo attraverso cui il diavolo crea se stesso. Mi segui? Quello che voglio dire, in altre parole, è che non puoi fare una frittata senza rompere delle uova e l'umanità è quelle uova rotte. E la frittata fa schifo. Bu- Buonasera, un saluto a tutte voi che siete in ascolto, un saluto agli ascoltatori di Radio Onde Furlane che ci ospita e un saluto agli ascoltatori di Radiazione che ci ascoltano in replica. E benvenuti a questo appuntamento di giovedì, un appuntamento natalizio, prenatalizio, diciamo, di Zardins Magnetics del 22 dicembre. Siamo in diretta, sono le 20:20 passate. Dio è un Dio odioso, questo era, diciamo così, un pensierino natalizio per tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori di questa puntata, e dove appunto siamo a ranghi un po' ridotti, però cercheremo di portare, insomma, a termine anche questo appuntamento, insomma. Nelle anticipazioni della puntata abbiamo scritto proprio che, diciamo, avremmo cercato di dare voce alle parole scritte di Alfredo Cospito, che oggi appunto è passato il 64esimo giorno di digiuno, e appunto che in digiuno, in protesta, in lotta contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo, e dalla scorsa settimana sono stati gli aggiornamenti, cioè nella stessa giornata è stato confermato il 41 bis, cioè rigettato il ricorso, e dall'altra parte, insomma, c'è stata quella udienza, diciamo, come si dice, in cui formalmente appunto è stato rimandato, insomma, alla Corte Costituzionale l'altra questione del ricalcolo della pena, appunto, che per la strage politica, diciamo, formalizzando nel quesito il discorso delle attenuanti che sono in contrasto, appunto, con detto così volgarmente, la richiesta della Corte Costituzionale di poter tener conto delle attenuanti sul calcolo della condanna, in quanto appunto non sono stati registrati feriti, morti e quant'altro, insomma, solo danni materiali. E quindi questo discorso delle parole scritte di Alfredo Cospito lo vedremo più tardi. Io avevo preparato già nelle scorse puntate altre cose, insomma, sempre su questo filo di cui parlavamo le scorse volte, sul fatto dello stragismo da Piazza Fontana al G8 di Genova e oltre. E poi ci sono comunque svariate, insomma, altre due o tre, diciamo così, notizie di controinformazione sempre connesse alla repressione, diciamo, a livello italiano, che appunto, se riusciamo, ne daremo, ecco, daremo anche di quelle, insomma, ci soffermeremo anche su quelle. Il discorso del di Genova, appunto, è questo che si diceva anche l'altra volta. Genova, il G8 di Genova fu una sconfitta soprattutto politica, anche militare, diciamo, fra virgolette, però soprattutto politica, perché ci fu la sconfessione, la divisione in buoni e cattivi, eccetera, eccetera. Io ho recuperato due volantini anonimi che erano comparsi nel, insomma, anni fa, ma che sono, mi sembra, ancora disponibili su un blog che si chiamava, che comunque raccoglieva vari testi di critica radicale, e il primo volantino, appunto, che volevo così andare a leggervi degli stralci, si intitolava Per farla finita con l'ordine dei molti e il disordine dei pochi, ovvero non è stato il Black Bloc a mettere a suo quadro Genova. Dice, riproponiamo un altro testo scritto a caldo dopo le giornate di Genova. Il testo è tratto da Detour, La canaglia a Genova. Mi sembra si stia parlando di un filmato, che era visibile. E insomma, che sì, mi sembra che fosse quello, si chiamava Detour. Chissà se adesso le tute bianche di Bologna sono ancora pronte a confermare le commoventi parole di un loro vecchio comunicato, virgolette, noi ci rifiutiamo di salvarci l'anima sulla pelle dei Black Bloc, riconosciamo la loro piena legittimità nel movimento e rifiutiamo la logica dei buoni e dei cattivi, chiuse virgolette. Poi gli insurrezionalisti, ecco, gli insurrezionalisti sono perfetti per cucir loro addosso questa parte. Da un lato sono apertamente favorevoli alla distruzione, dall'altro sono additati da tutti, dalle forze dell'ordine come del resto del movimento. Cosa si può pretendere di più? Peccato che parecchi anarchici insurrezionalisti non fossero nemmeno presenti a Genova, essendosi dichiarati il più delle volte contrari a seguire le scadenze imposte dal nemico e a partecipare alle sue iniziative. E per gli anarchici insurrezionalisti il nemico non era solo quello chiuso dietro la linea rossa, ma anche molti di quelli che volevano sfondarla. Ma allora a chi attribuire tutta questa violenza? È questa la preoccupazione che vi assilla, vero? Voi politici, giornalisti, sinistri recuperatori, fate veramente schifo. Gli scontri di Genova hanno visto la partecipazione di migliaia di persone. Siamo spiacenti di comunicarvi che no, non erano tutti anarchici insurrezionalisti. No, non erano tutti dei Black Bloc. No, non erano tutti stranieri. È inutile che andiate a cercare in qualche angolo recondito e oscuro ciò che avete sotto gli occhi. Proprio il fatto più grave avvenuto a Genova, l'assassinio di un dimostrante da parte dei carabinieri, dovrebbe ben suggerirvi qualcosa. Malgrado gli odiosi tentativi da parte dei giornalisti di farlo rientrare in una comoda etichetta prestabilita, Carlo Giuliani non era vestito di nero. Non era un anarchico insurrezionalista, non era uno squatter, non era un pancabestia, era solo un ragazzo arrabbiato contro questo mondo che si è difeso uccidendolo. Non era uno dei pochi, era uno dei tanti. La rivolta non è una rara tara genetica, la rivolta è nell'aria, pronta a manifestarsi dappertutto e in chiunque. Chi si indigna per la devastazione di banche e uffici finanziari, ovvero le sedi dei criminali fra i più feroci che esistono, è solo chi è degno di questo mondo ed è ovvio che intende difenderlo con ogni mezzo necessario. Casarini, che ha perso un'occasione d'oro per mostrare al mondo il suo già collaudato show di scontri simulati, e Agnoletto, che tante volte gli ha sottratto la luce dei riflettori, entrambi si sono adoperati per difenderlo, non disdegnando di ricorrere alla delazione e alla richiesta di iniziative più dure e decise da parte delle forze dell'ordine. Peccato per loro che costoro lo abbiano fatto in maniera indiscriminata. Questi due pezzi di merda sono stati costretti a mettersi a nudo, ad ammettere di non poter controllare e rappresentare un intero movimento di protesta. Le vostre certezze sono finite, i vostri calcoli politici pure. Gli insorti di Genova erano pochi rispetto ai manifestanti pacifici, è vero, ma erano molti, troppi rispetto alle vostre speranze. È inutile che continuate a strillare contro pochi scalmanati. È inutile che continuate a cercare parafulmini per proteggervi dalla tempesta quando questa vi travolge. Alcuni anarchici, 23 luglio 2001. 22 dicembre, Zardins Magnetics, sempre in diretta, un altro volantino relativo alle sommosse per il G8 di Genova del luglio 2001, sempre reperibile a mondosenzagalere.blogspot.com, si intitola Parabellum. Ieri abbiamo assistito a una grande giornata di democrazia. Infatti tutti gli spezzoni del corteo democraticamente, senza che fossero operate distinzioni di sesso, razza, religione, idea politica, sono stati caricati, picchiati, sparati dalle forze dello Stato, fino all'esecuzione di Piazza Alimonda. Chi nei mesi scorsi ha operato affinché la manifestazione di Genova si riducesse a un'innocua e inutile passeggiata sotto i riflettori dei media come quella dell'anno scorso, si è trovato spiazzato e non ha potuto far altro che deplorare gli avvenimenti, chiamando alla calma e all'abbandono della strada, proprio mentre questa intonava la vecchia bella canzone della rivolta. Le Agnoletto, le Francescato, i Casarini, i Farina devono essere espulsi dal movimento per la gravità dei comportamenti tenuti e delle loro dichiarazioni rilasciate. Diversamente da ciò che questi infami e il loro pastore Bertinotti sostengono, gli scontri non sono stati provocati da poche centinaia di elementi estranei alla manifestazione, ma hanno visto un'ampia e decisa partecipazione, grazie alla quale l'arroganza delle forze dello Stato è stata contenuta e sono state estirpate dalla strada di Genova varie concrezioni di morte, in primis le banche, e numerose brutture mercantili. Nella pratica, l'ideologia pacifista si è rivelata per quello che è, un elemento di debolezza mortale. Perché nel luglio 60 le forze dell'ordine non si azzardarono a sparare, nonostante la gravità degli scontri, e ieri invece l'hanno fatto, perché allora sapevano che avrebbero dovuto scontare una risposta adeguata all'offesa. La giornata di ieri ha messo in chiaro la differenza che passa tra i cieli dell'ideologia democontrattualista del Genoa Social Forum, delle tutte bianche e company, è la natura terrena dei rapporti sociali, dove i problemi non sono mai di forma, ma di forza, e dove l'enfermé, Blanqui, continua a aver ragione, oggi come 150 anni fa. Chi ha del ferro ha del pane. Salutiamo il Black Bloc e tutti gli anonimi compagni che si sono battuti con coraggio negli scontri di piazza di ieri. È emersa quella comunità universale di lotta che costituisce il senso profondo dell'azione degli uomini quando si levano contro il dominio del capitale dello Stato. Sì al movimento reale e a tutti i comportamenti che rompono con la passività, oggi più decisi di ieri. Alcuni individui sostenitori della comunità umana. Volantino distribuito a Genova sabato 21 luglio 2001. Thank you. E ci stiamo ascoltando i Conflict, band storica dell'anarco punk inglese, è nata nel 1980 e questo è il loro, credo, il primo 7 pollici, perché abbiamo fatto anche delle uscite però su formato 12 pollici. Comunque questo era uscito sulla, grazie alla collaborazione con la Cress Records, l'etichetta che ha fatto uscire questo disco. 7 pollici, che si chiama The House That Man Built. Mentre volevo dire che prima ci siamo ascoltati, prima dell'intervento, una band torinese, i Memento Mori, dal loro 7 pollici datato 2006. Comunque rimaniamo all'ascolto di questi Conflict. All a con, I look at the past history, tells all government he's wrong. Quindi sono le, mentre sono le 20:47 di stasera, di giovedì 22 dicembre, passiamo, anzi prima di passare ad altro, solo un inciso per chiudere il discorso su Genova. Guardate che il discorso dello stato di eccezione è un qualcosa che non è finita. Prima c'era questa cosa del terrorismo islamico, cioè prima c'è stato questa cosa qua del massacro contro chi manifestava a Genova per cercare di fermare il neoliberismo, diciamo così, semplificando. E poi c'è, immediatamente dopo, guarda caso, è scoppiata sta roba del terrorismo islamico. Poi sono passati gli anni, insomma, nel frattempo convivevano anche le vecchie emergenze, c'era la mafia sempre presente, sempre più articolato il discorso repressivo contro questa nuova emergenza, rinnovate emergenze, e lo stato di emergenza quindi promuove, diciamo, una asfaltatura delle complessità, no? Perché la gente è sotto il terrore e quindi ogni fenomeno tende a essere presentato come qualcosa di avulso completamente dal contesto sociale, quindi dove non c'è nessuna lettura delle dinamiche di classe, quindi dove si va dogmaticamente a schierarsi. L'ultima è appunto sta roba del cosiddetti vaccini, provax o no vax, invece c'è ancora una miriade di critiche, eccetera, insomma, in posizioni sfumate, differenti, e invece è andata a finire così, insomma, è sempre lo stesso meccanismo. Chiudiamola qua. Rupert ci racconta invece, un compagno trentino, ci racconta che ha pensato non sia del tutto stupido raccontare un paio di vicende che lo hanno coinvolto, e leggo giusto due appunti per il presente e il futuro che dovremo combattere. Non vi ruberò dunque più del tempo necessario. Il sottoscritto ha collezionato una manciata di definitivi da scontare: possesso, fabbricazione di documenti di identificazione falsi, porto abusivo d'armi e varie altre, che complessivamente fanno 2 anni e 7 mesi per ora, più 1 anno di libertà controllata. Ho deciso, dopo diverse e non facili riflessioni, di richiedere la misura dell'affidamento in prova al lavoro, non potendo accedere, vista la lunghezza della pena, alla misura alternativa dei domiciliari. Ora, qui arriva il bello: evidentemente ai democraticissimi signori della polizia politica e dei carabinieri, mentre il democratico mondo si scandalizza per la polizia morale iraniana e l'impossibilità d'opposizione in Russia, non andava proprio giù il fatto che io potessi cavarmela così, tant'è che si sono presentati almeno in 3 posti di lavoro, a quanto io sappia, per mettere le loro pressioni affinché non mi assumessero o mi licenziassero. Resta il fatto che l'ultimo posto di lavoro in cui sono stato assunto li ha messi un po' più in difficoltà e non sono riusciti nel loro intento, ma ciò non è bastato, perché la radicata adesione valoriale all'anarchismo, unita alla scarsa propensione a individuare una modalità d'espressione delle proprie idee diversa dalla commissione di condotte illecite, rende concreto il pericolo di recidiva, era tra virgolette. Quindi, sei anarchico, quindi vai in galera. Questo dicono i signori giudici. Bene, ci hanno provato e ci sono riusciti. Io dovrò scontare queste condanne con la stravagante quanto odiosa misura della semilibertà, virgolette libertà, di uscire per andare a lavorare, si intende. Questo è, seppur di piccola entità, un segno indicativo dei tempi. Tempi di guerra, durante i quali l'opposizione deve essere bastonata e la radicalità di principi cancellata dalle menti, e proprio per questo non c'è molto di cui stupirsi. Non vogliamo cambiare idea, quindi finiamo in carcere. Non la cambiamo nemmeno là dentro. Può capitare di finire nei regimi speciali, fino a quello studiato per distruggere fisicamente e psicologicamente, il 41 bis. Sarebbe solo il caso che i signori giudici, magistrati, assistenti sociali di sorta e psicologi la smettessero di riempirsi la bocca di perbenismi, e che ne dicano queste personcine se stiamo finendo in carcere per le nostre idee, semplicemente perché i valori dell'anarchismo sono talmente distanti dal loro mondo che non gli rimane altro che ingabbiarli. Per questo oggi è ancora più importante portarli nel cuore e rivendicarli e rivendicare le nostre storie. Io, dal canto mio e distante da qualunque possibilità di abiura, al di là di cosa questo possa significare per un anarchico, mentre guarderò le stelle tra le sbarre di una galera, non potrò che avere nel cuore una sola cosa: Un concetto tanto semplice quanto improbabile, ma ogni giorno di più l'unica strada percorribile in mezzo alla miseria che sovrasta il nostro presente. Cada. Cada l'organizzazione sociale che ci soffoca, viva l'anarchia. Eccetera. Poi ci sono tutte una serie di messaggi di solidarietà. 10 dicembre 2022, Rupert, che non vi leggo, insomma è reperibile il comunicato sul blog Il Rovescio. Questo discorso della biura si collega oggi anche al fatto che il riesame per Massimo Passamani è stato, diciamo, ha avuto un esito negativo, nel senso che hanno confermato la misura, insomma le restrizioni domiciliari per Massimo. Lui e i suoi compagni oggi hanno, diciamo, voluto dare scrivere un report che non vi leggo, però insomma se no stasera faccio altro che leggervi i comunicati, e poi comunque sono reperibili e li inseriamo nel blog in ogni caso. E il discorso della biura di cui parlava Rupert lo riprende anche qui Massimo e i loro compagni, insomma i suoi compagni. In genere la biura, parola che un tempo apparteneva al lessico critico provocatorio dei rivoluzionari e che oggi invece è integrata senza imbarazzo nel vocabolario tribunalizio, era pretesa per i reati già passati in giudicato, non per quelli ancora oggetto di processo. Seguendo questa logica, per vedersi revocare le misure cautelari, imputati e imputate si dovrebbero ravvedere rispetto a fatti per cui potrebbero in seguito anche venire assolti. Siamo insomma alla biura preventiva. Poi dice, appunto, continua il comunicato, dice che comunque dal punto di vista nostro, diciamo, non della controparte, la partecipazione è stata importante, tutta una serie di compagni solidali, insomma, con Massimo, che ha partecipato a tutto, insomma, ha promosso un sacco di mobilitazioni in Trentino, e quindi erano tutte, insomma, i vari chi è andato a dargli la solidarietà a quest'udienza, insomma, erano questi compagni di lotte. Per adesso proseguire nella scaletta di stasera, perché il tempo scorre, sono già le 20:56, e ancora un aggiornamento di stasera, proprio delle 18:57, nuovo sciopero della fame di Ivan Allocco. Ivan Allocco è un compagno piemontese di Fossano, si trova rinchiuso in Francia, è accusato di vari attentati, di cosiddetti attentati, vari attacchi contro mezzi, diciamo, vari automobili, di strutture, insomma, oppressive. Leggo anche qua velocemente, nuovo sciopero della fame di Ivan Allocco. Dal 22 dicembre lo Stato italiano vuole mantenere Alfredo Cospito in 41 bis nonostante il suo sciopero della fame, che dura da più di 2 mesi. La vita di un prigioniero non conta nulla per questi esseri dalle menti insipidi e dai cuori freddi. Che sia attraverso la tortura psicologica dell'isolamento o attraverso la tortura fisica di una morte lenta, quello che vogliono è annientare uno dei loro nemici. Ma Alfredo non è solo, non lo sarà mai, il suo coraggio di fronte all'accanimento distruttore della repressione fa aumentare la nostra determinazione. Comincio oggi un nuovo sciopero della fame al suo fianco. Solidarietà oltre che Alfredo, Anna, Juan e Toby, anche a Nicola De Maria, combattente delle Brigate Rosse, Un pensiero per tutte e tutti i prigionieri, prigioniere, anarchiche, anarchici, rivoluzionari, rivoluzionarie, tra cui Nadia Lioce, Marco Mezzasalma, Roberto Morandi, combattenti delle Brigate Rosse detenuti in 41 bis da decenni. Morta allo Stato, viva l'anarchia, Ivan. Per scrivergli, appunto, trovate gli estremi, li trovate in vari soliti siti di controinformazione. Direi che si può fare uno stacchetto di musica e poi ancora. Molto veloce questa band statunitense, finito un brano, via subito il seguente. Loro sono le Arum Scarum, band dell'area di Portland, nell'Oregon, band che è esistita a fine anni 90, a cavallo degli anni 2000. Questo è un loro album che si chiama The Last Light, del 2004. Chi lo sa, non mi ricordo, comunque band, come già detto, fine anni 90, primi 2000. We'll be right back. Bene, sfumiamo le Arum Scarum per questi ultimi 25 minuti di Zardins Magnetics di giovedì 22 dicembre 2022 e affrontiamo il discorso sul compagno anarchico in sciopero della fame Alfredo Cospito. Sul canale nostro di Telegram abbiamo pubblicato l'invito a scrivergli, anche se in 41 bis adesso, con diciamo lo scoppio del caso mediatico, qualcosa comincia a filtrare di corrispondenza, quindi rinnovo l'invito anch'io, anche noi qui in diretta, a mandare telegramma ad Alfredo Cospito, che si trova a Bancali presso Sassari. E riepilogo le manifestazioni, diciamo i momenti, le iniziative che ci saranno nei prossimi giorni a livello nazionale, italiano e internazionale. Quindi oggi siamo al 64esimo giorno di sciopero della fame. Il nostro compagno non ha più tempo, non è il momento dello sconforto, però se il potere è vendicativo, gli oppressi non gli sono da meno. Quindi Torino ci sarà un presidio il 23, che è domani, alle 4, durante proprio il massimo del shopping natalizio, alle 4 presso la Rinascente, via Lagrange 15, e sono già un po' agitati dalle parti delle questure e delle caserme varie. Genova, domani alle 18, in piazza Rai Betta, ore 18. Ripeto, domani a Genova. Roma anche alle 15 domani ci sarà, invece, davanti al Ministero della Giustizia in via Arenula, alle ore 15, presidio per Alfredo Cospito. Poi c'è Madrid sempre domani alle 20, di fronte all'ambasciata italiana, un presidio. E anche a una cittadina di Giulianova, in Abruzzo, non mi ricordo la provincia precisamente, ci sarà invece il 29, che è giovedì prossimo, un presidio, non è specificata l'ora qui in questo annuncio. Infine a Roma ci sarà il 31 una manifestazione nazionale, diciamo, ma c'è ancora tempo per, insomma, per così richiamarla. Io stasera, con i tempi, i minuti che ci rimangono, volevo appunto, avevo selezionato dei testi di Alfredo, che Alfredo aveva, era riuscito insomma a far filtrare dalla alta sorveglianza, dove si trova rinchiuso dal 2016 in seguito appunto all'inchiesta Scriptamanent. Quindi si tratta, io secondo me insomma erano significative, sempre, mi sembra che ne abbiamo già accennato altre volte, comunque un'intervista che lui aveva realizzato con i compagni di Vetriolo nel 2017, per quanto insomma fosse anni prima dell'emergenza attuale, diciamo appena scoppiata, appena passata quella del Covid. E per quanto fosse anni prima, per annunciare insomma, era nell'aria questo nuovo, diciamo, stato di eccezione, si era già annunciato nei termini di mega macchina. E questo è un testo. L'altro testo invece è un'intervista che lui realizzò, che Cospito realizzò nel 2014, e dopo la sentenza di primo grado per il ferimento di Adinolfi, del manager del nucleare, di Ansaldo Nucleare, Era un'intervista con, appunto, con le cellule, con la cospirazione delle cellule di fuoco, una, appunto, una formazione, diciamo così, che è stata presente soprattutto in Grecia all'inizio degli anni 10, e credo che sia decine di compagni che sono dentro, insomma, che sono stati catturati e stanno scontando pene consistenti nelle carceri greche. E questa, appunto, intervista invece era incentrata, ecco, era un po' più rognosa, diciamo, è una cosa di cui non si dovrebbe parlare, ma a noi non ci interessa, tiriamo fuori anche le rogne. Era, appunto, le famose, beh, insomma, adesso io non so a cosa si riferissero, se si riferisse la controparte, gli sbirri, i magistrati, quant'altro, quando accusavano Cospito e la FAI Free, la Federazione Anarchica Informale, di essere diciamo gli anarchici cattivi, mentre invece altri, insomma, tradizionalmente insurrezionalisti erano i buoni. Non so a chi, cioè precisamente a quali espressioni del pensiero di Cospito si riferissero. Comunque qui c'è un tono un po' polemico, appunto, verso questo insurrezionalismo classico. Quindi vado a cercare gli stralci che ero segnato. Se avete pazienza un attimo, ecco, quindi sì, dice, appunto, l'interlocutore della cospirazione delle cellule di fuoco, dice: chiede quali sono le tensioni del movimento nel 2014, è stata realizzata, ricordo, questa interazione, che ovviamente sarà venuta per carta e penna, insomma, perché entrambi gli interlocutori sono erano in galera già allora. Quali sono le tensioni del movimento anarchico in Italia adesso? Quali le sue caratteristiche, le sue contraddizioni, le sue attività? Alfredo, questa è una domanda importante che necessita una risposta articolata. Frequento il movimento anarchico dalla fine degli anni Ottanta. Molte cose negli ultimi 20 anni sono cambiate, incomincia la risposta, poi vado avanti. Diciamo, a un certo punto spesso si pensa che l'insurrezionalismo sia un tutto unico, fatto di concetti, teorie ferme nel tempo, nella loro rigidità ideologica. Un'ideologia con addirittura, cosa aberrante, un suo leader massimo e i suoi dogmi. Nulla è mutabile nel tempo. Le donne e gli uomini, attraverso le loro azioni, forgiano le idee. Non sono quei 3 o 4 compagni e compagne conosciuti, con i loro libri e articoli, a indicare la strada, né tantomeno le lunghe e inconcludenti assemblee, ma quei compagni e compagne sconosciuti che con la loro pratica d'attacco ci spingono avanti, portandoci verso la vita. Fu proprio attraverso questa pratica che alla fine degli anni 90 i gruppi che ci hanno preceduto, Cooperativa Artigiana Fuoco e Affini, Occasionalmente Spettacolare, Brigata 20 luglio, Cellule contro il Capitale, eccetera, eccetera, i carcerieri e le sue celle, sono varie sigle adesso, misero in discussione due dogmi consolidati del cosiddetto insurrezionalismo, ovvero i due dogmi sono l'anonimità delle azioni e la predominanza dell'assemblea, trasformati in organo decisionali. Erano due punti fermi che stavano trascinando inesorabilmente verso un'inerzia letale. Dando continuità e voce alla propria pratica attraverso le rivendicazioni, uscendo dalle pastoie assembleari e non ponendosi più limiti di comprensibilità nei confronti della gente e del resto del movimento, l'anarchia tornò a far paura. A furia di bombe e rivendicazioni, questi gruppi sfatarono il dogma dell'anonimato d'azione, dell'azione, facendo breccia nel silenzio che ci aveva avvolti dopo l'ondata repressiva del processo Marini, ostacolando seriamente eccetera eccetera. Il processo Marini era a fine degli anni 90, 96 eccetera. Vado e salto avanti. A quel punto molti fecero un passo indietro, sostenendo che certi attentati spettacolari e le relative rivendicazioni allontanavano la gente. Erano i tempi, insomma, delle tragiche morti di Baleno e di Sole Baleno. Lui dice: furono molti gli appelli alla legittimità democratica, a una giustizia giusta, a un processo equo, non solo da eminenti rappresentanti del radicalismo tra virgolette democratico, ma anche da parte del movimento anarchico. Una gran parte degli anarchici si impegnò in una crociata innocentista ai limiti della denigrazione. Sole e Baleno furono rappresentati come due vittime innocenti, due poveri ingenui travolti da una storia più grande di loro. Dopo l'arrivo di una decina di pacchi bomba indirizzati ad alcuni dei responsabili della morte dei compagni, il movimento anarchico quasi al completo, temendo future ondate repressive, prese le distanze da tali pratiche, considerandole nel migliore dei casi non degne di anarchici, nel peggiore dei casi come vere e proprie provocazioni poliziesche. Pochissime eccezioni naturalmente si attirarono le attenzioni della magistratura negli anni a venire. Da allora la grande maggioranza dei cosiddetti insurrezionalisti fu travolta da una sfrenata quanto suicida voglia di consenso, intraprendendo una corsa inarrestabile incontro alla società civile. Poi qui lui fa un excursus, parte proprio da Comiso e attraversa Val di Susa, diciamo, sempre va avanti, batte su questo discorso del cittadinismo qua, che è diventato alla fine, insomma, che lui, secondo Alfredo, era già una cosa, nelle premesse era già a Comiso, cioè con quelle serie di criteri per insomma da seguire, diciamo, nelle famose insomma lotte parziali in cui inserirsi e guidare, diciamo, l'insurrezione, portare insomma a fondo l'insurrezione come appunto una, diciamo, seguendo l'insegnamento addirittura di Cafiero, no? E lui svolge tutta una critica a questo discorso e si mette anche lui dentro questo, diciamo, momento di disorientamento, e poi dice: ho cominciato a capire queste rivendicazioni qua, che come agivano, come funzionavano. Dice: per questo ho fatto mia la metodologia della Fight Free. Gli insurrezionalisti qui da noi ne fanno al contrario un discorso ideologico. Critica appunto questi così insomma detti insurrezionalisti classici, però dice appunto: questo nuovo modo di progettare, di vivere le proprie passioni, di interagire tra di noi per aumentare la qualità della nostra azione, della nostra vita, del nostro essere in primo luogo ribelli, insomma lo ritengo un motivo insomma primario, ecco questo. Si fa il collegamento che lui fa praticamente sulla qualità, diciamo qualità fa ridere, ma sull'intensità più che altro della vita, che dell'esistenza insomma che uno riesce a vivere, e capacità di mettere in pratica questa intensità, questa tensione alla insomma, non diciamo rivoluzione, ma alla rivolta più che altro. E questo era quello, il discorso, il testo iniziale, che appunto vi ricordo è intervista Cospirazione Cielo di Fuoco, Alfredo Cospito, dalle carceri greche all'S2 di Ferrara, quattro parole in libertà. Invece l'altro testo, che era appunto un'altra pubblicazione famigerata, nel senso che è stata anche questa, è stata sequestrata più volte, è Quale Internazionale, intervista e dialogo con Alfredo Cospito dal carcere di Ferrara, stata pubblicata in più puntate sul giornale anarchico Vetriolo tra il 2018 e il 2020. Vado al punto che su cui volevo soffermarmi stasera, è il discorso che vi dicevo prima della mega macchina, no? Per quello che ci rimane, poi magari ci potrebbe essere tempo ancora per riprendere questi discorsi, se non che appunto invece il tempo scorre e Alfredo è insomma ai limiti della sua possibilità di proseguire, insomma, di allontanare il momento in cui creperà di fame. Mi scriveva qui nel 2017, chiariamoci meglio di cosa stiamo parlando. Per quanto fantascientifico e fumoso possa sembrare, stiamo parlando di una rivoluzione che, se non fermata, stravolgerà, rivoluzione fra virgolette, se non fermata, stravolgerà la vita di tutto il pianeta. Se il capitalismo è figlio alienante e alienato della supremazia della tecnologia sulla scienza, possiamo facilmente dedurre che il prodotto di questo rapporto è la mega macchina in cui oggi tutti viviamo immersi. Il passo successivo sarà la presa di coscienza di questa mega macchina attraverso l'intelligenza artificiale AI. Andiamo per gradi, gli investimenti nel mondo sulla AI, sì, queste sono stime, io credo che dopo il Covid sono state modificate, ma comunque in questo momento sono consistenti e si moltiplicano di anno in anno. Nel 2016 l'Europa ha investito oltre 3 miliardi di euro, si prevedono 20 miliardi nel 2020. Gli Stati Uniti ne hanno già investiti 18 miliardi e se ne prevedono 37 miliardi nel 2020, 12 miliardi di euro in tutto il mondo nel 2017, unicamente per lo studio di algoritmi in grado di imparare dai propri errori in maniera autonoma. In stadio avanzato la creazione di computer neuromorfici che, invece di svolgere calcoli basati su codici binari acceso-spento, usano processori che scambiano segnali come fanno i nostri neuroni, raggiungendo velocità infinitamente maggiori, dimensioni sempre più ridotte, metodi di funzionamento sempre più vicini alla nostra mente, tra virgolette vicini. Abbiamo ancora tempo a disposizione e spazio di manovra? Sì, soprattutto perché il sistema non è ancora pienamente cosciente della svolta che sta per apprestarsi e compiere, e gli investimenti, per quanto ingenti, sono appena gli inizi. È molto probabile che le burocrazie governative, le agenzie di intelligence abbiano una certa inettitudine, rigidità che impedirà loro di comprendere appieno l'importanza di alcuni sviluppi, che a noi esterni a queste logiche e a certi specialismi potrebbe essere chiara. E quindi appunto possibilità che si aprono, diceva Alfredo. Ma in cosa consisterebbe questa svolta? Questa rivoluzione tecnologica, insomma, partendo dalla rivoluzione agricola che si è diffusa nel mondo in migliaia di anni, la rivoluzione industriale in centinaia di anni, la rivoluzione informatica in qualche decennio avrà il suo apice, il suo punto di non ritorno con quella che i tecnici e scienziati definiscono esplosione di intelligenza. La Human Brain Project, fondata nel 2005, spera di ricreare un cervello umano nel giro di 20 anni. Ricreare un cervello umano. Da quel momento il rischio di perdere le redini del nostro destino si farà altissimo per la felicità dei transumanisti. L'Homo sapiens si trasformerà in qualcosa d'altro, qualcosa di oscuro, un aborto della natura, un cancro per questo pianeta più di quello che siamo già. Fortunatamente per noi gli scienziati di solito sono troppo ottimisti. Possiamo ben sperare nelle nostre capacità di contrastare, se non invertire, questo processo. Dipende da noi, dalla nostra lucidità, dalle forze che metteremo in gioco, dalle armi che metteremo in campo. E avanti. Ma quale peggiore condanna per uno schiavo che una amortalità che prolunga l'agonia di una vita senza libertà, scriveva già quella volta Alfredo. Noi anarchici siamo sempre stati sensibili a queste problematiche, perché niente di più in questi anni ha messo in discussione le nostre libertà quanto la modernità, la tecnologia. Non ci siamo certo limitati all'analisi sociologica, eccetera, eccetera. Poi passa a svolgere un altro discorso, diciamo, storico, passando, cioè riprendendo i discorsi, ripeto, storici, che adesso devo saltare. Qui in Italia, in ambito anarchico, in controtendenza negli ultimi anni, solo alcune azioni della Federazione Anarchica Informale, FAI, i tanto denigrati pacchi bomba, una pratica antica che, per quanto se ne dica, fa parte della tradizione anarchica. Basti pensare ai cosiddetti galleanisti in America, le spedizioni di bauli esplosivi fatte dagli anarchici fuoriusciti in Francia durante il fascismo, indirizzate ai maggiori quotidiani italiani, solo per dirne qualcuna. Eccetera, eccetera, si dilunga su questo discorso qua, comunque rivendica, insomma, il discorso che pacchi postali hanno una loro tradizione. Io adesso qua siamo gli sgoccioli. Questi qua erano, appunto, erano le parole di Alfredo Cospito, che è costretto al silenzio già da 6 mesi completo al 41 bis. Vi ricordo, appunto, che noi in questa trasmissione abbiamo dato sia parole sia le parole dato voce alle sue parole, e come anche ricordo anche a posizioni critiche nei suoi confronti. Mi ricordo ad esempio adesso così a braccio un articolo che abbiamo letto sulla bomba all'hotel, quello, insomma, che accadde nel 1921 a Milano, adesso mi sfugge sempre il nome di quel hotel. Comunque, e il fatto, appunto, che i compagni misero la valigia scoppiò, insomma, doveva scoppiare nell'ufficio del questore, invece scoppiò nel teatro del sotto, insomma, dove c'era purtroppo una tragedia successa, insomma, e lì era sviluppato un discorso completamente diverso, completamente, diciamo, diceva la tradizione italiana cioè quello che dice Alfredo vale sicuramente, appunto, come lui stesso qui affermava, per la Francia, per storicamente in Francia affermata questa cosa qua, non in Italia, soprattutto quello che è successo negli anni seguenti agli attentati ai re e ai presidenti del consiglio vari, nonché ai dittatori che seguirono. Io per questa sera però sono costretto a praticamente salutarvi, a darvi appuntamento il prossimo giovedì, e vi ringrazio, insomma, lascio la parola adesso per i contatti, eccetera, alla regia, e di nuovo, insomma, vi saluto. Bene, e sulle ultime note di questo brano, che stavamo tenendo in sottofondo, ma che comunque continuiamo a tenerlo in sottofondo, volevo ricordare che era una band statunitense, gli Agent Orange, che abbiamo ascoltato quasi in prevalenza in tutti gli interventi fatti come sottofondo, anche a parte se prima ci siamo prolungati con la band femminile Arum Scarum. Comunque, come detto prima, siamo proprio giunti al termine di questa trasmissione, proprio siamo agli sgoccioli con i secondi, quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì, sempre con questa trasmissione Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30 in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane, e andrà poi in onda domani pomeriggio su Radiazione attorno alle 17 in rete. Ricordo i nostri contatti velocemente, se volete scriverci tramite posta elettronica potete farlo scrivendo a liberetutti@autistiche.org, oppure scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarri, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre ricordo che questa trasmissione, ma anche tutte quelle eseguite nelle settimane precedenti, nelle volte scorse, potete riascoltarle andando a cercare zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ovviamente andando a cercarle in rete. Bene, siamo giunti al termine e vi lascio anche con questo ultimo brano, dato che come abbiamo iniziato la trasmissione siamo sotto le famose festività natalizie, e quindi ci salutiamo per il prossimo giovedì. Vi lascio con questo brano della band trentina I Congegno, band esistita oltre un decennio fa circa, e il brano ovviamente di rito, come vogliamo dire, di dovere, sarà Un Natale Fantastico. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.